una tonalità, la tonalità troppo acuta. Quindi bisognerebbe regolarlo bene e lasciarlo avere un riferimento, lasciarlo sempre così. Più o meno, dai, già andava bene, non c'è problema. Siamo a fare la bug, non ha giocato, mi sto proprio, sono fuso qua, con tutti i medicini che ho con gli piedi. C'è anche la voce rauca, un po' di medicina sto prendendo, antinfiammatori, punture, cortisone, no, stanno venendo a farmela, il pomeriggio, perché ne faccio due al giorno, invece la mattina devo andare io lì al Conti, e io, infatti mi sto gonfiando, cazzo, come una palla, non so come niente nulla, c'è tutto un fiato dal cortisone. 10 giorni, beh, che dia, 10 giorni ho, è un giorno, capito? Io adesso dipende, cosa dice venerdì a Torino, mercoledì c'ho l'appuntamento con mio medico, tanto deve fare impegnativo, poi venerdì c'ho un altro ricovero nuovo Torino, al policlinico, vediamo cosa ne tirano fuori, quindi a rientrare, non so, ci mi tocca a casa tutto marzo, e già ero un po' stanco, però stare così è una tua scatto, ma almeno non viaggio, non faccio, cioè, facciamo male anche a quella schiena in questo periodo. Adesso vedi, con le punture che sto facendo mi è passato anche il mal di schiena, azioni, il tuo muscolo, a vedere se ti passa, non più si punturi, mamma mia, e posto sono, due al giorno sono pesanti, brucia un bel, penicillina, cosa pensi sia, mamma mia, questa di sera è una caposala in pensione dell'ospedale civile, quindi figura. Mentre l'altro invece mi fa mio cognato, la mattina devo andare in ufficio da lui, capito? E lui ha una casa a riposo, quindi insomma. Adesso mi ha imparato a fare punture, comunque le sa fare, fa bene, è anche molto leggero. E invece questa signora che c'è qua sopra di me, sarà infermiera professionale caposala all'ospedale civile in pensione, e allora viene lì la sera, capito, a farlo. Oh, ma magari vi gioco buono, io ho capito, perché no, è una transata. Ma non c'ho coraggio, capito. Io punture poche ne ho fatte, solo muscolo e voltare quando ho avuto l'ambosciatagia, ma poi per il resto non è che non sono molto amante delle medicine in generale, io no, oggi non ci vuole le pastiglie, diciamo, perché non è che purtroppo puoi lasciarle così, no? Pastiglie, qualsiasi cosa, bisogna farlo. Io vivo, non vengo la depressione, che sto potendo a casa. Adesso lo mangiare il cane, aspetta, così faccio qualcosa. 5 minuti e arrivo. Tesoro combinato. Aspetta, arrivo da subito. Invece è andato davvero a cercare il gatto. Arrivo subito oggi. Eccomi qua oggi. E te c'è cantante? Io. Va bene, anche quello fa parte del passatempo. Io adesso sia un quarto, noi, io perché ero qua, ma il computer, però c'è anche Marco, te l'ho detto, adesso è riuscito a cercare il gatto, capito? Però di solito adesso sia mezzo, le 7, andiamo sempre a farci due chiacchiere. Mando un messaggio a vedere, che strano. Beh, pipistrello, trovato il gatto. No, tu sì, chi c'è l'importante non è tale. Ma io qua sì. Via, che noia, che barba, che noia. Che pollo. Passo il caro canale dove ti cazzo i banchini. E devo uscire. Chiami con lui. E fini. effetto, davvero, non lo so, ma c'era sparito il gatto. Tanto non entra nessuno, tu ascoltati la musica e 10 minuti mi faccio la barba, ci sentiamo dopo. Domani qua, se entra Marco, io mi sto facendo la barba. Allora, mettete i zingari. Eia, tutto liscio. Si cercano subito, genio. 10 minuti, sempre dare una pennellata, sto rifatto. Tanto già è tutto acceso qua, già sento, io sento qualcuno. Gatta. Tu sei Marco. Ah, tu sei. Vabbè, ho sentito il bip, arrivo subito. Vabbè, il QCD finito, Genio. Oh, genio. Vabbè, Peppicu. Ah, sono copinato, non è entrato. Vabbè. Poi io mi stavo tirando, stendendo la pizza. Io ci mandiga pizza. Attento, pinnuto volante, Marco è andato a cercare la rattetta Pignara, e adesso lo chiamo a vedere, non si sa mai, perché non stava neanche molto bene, aspetta, lo chiamo. Vamos, rispondi, no? Nein, e verrò a casa a telefono, adesso uscite in macchina tu. Gappa, già sono qua, Beh, genio, io vado a portare il cane, dai, ci sentiamo dopo. Thank you. una borsa spazio. Non si può non far qualcosa. Infatti, sicuramente, sicuramente, sicuramente è impegnato a questa cosa. No, sono sempre molto male. Si fanno le rumore per questa manifestazione. Tutta la banda può accaere, ma veramente, ma è diventata un casino. Tanti e tanti di quei disturbi, una faccenda che hanno messo un po' tutto, banda 400, 500, portantine, carichette, piccatrate, grazie, tutte le comande di auto, tutte le comande di cancelli, no? Sono tutti in una cacca, tutte le comande di cancelli. E c'è una banda materiale, anche se è stato tutto secondario, sulla sua fortuna. Sì, tutto sul secondario. Tutto sul secondario, cioè di tutto e di più. Tutto. 4:33 siamo qui a fare dei bambini, qui così per sentire il respiro dei bambini, cancelli elettrici, sbarre elettriche, di tutto e di più. Hanno buttato tutto lì dentro come sia un mondezzaio. Per il cucciuccio li ha per facendo, sì, magari fa la famiglia simile a quello e un altro ancora più grande, sempre della stessa razza, capito? Quindi è stato fatto anche per quello, vai. Quando va a fare i distretti vanno hanno la possibilità di fare la loro passeggiata e hanno tutto, tornano, si riposano, poi insomma anche a me non mi piace fare la festa. No, ma poi meglio, più seguito insomma all'interno di casa. Sai che poi gli animali adesso quindi si partiscono e si soffrono. In città micidiale per loro, perché sono le polveri sottili, sono la porcheria, gli immobili, eccetera, sempre per trovare andare per sotto. La terra, si solleva anche la terra. Loro sono primi, come bambini, carrozzina, magari a subire tutti questi fenomeni di irritazione, eccetera, di tutto ciò, la polvere sottile, la smog in generale. Sì, ma guarda, io fortunatamente sono qua, quindi c'è un grandissimo giardino, difficilmente mia moglie mi lo fa uscire fuori, lo porta giù all'edicola, nel giornale, eccetera, fa camminare di più. Se no io qua, siccome è tutto chiuso, non vado dentro, e gioca, fa, lui conosce un po' tutti i cani. Poi ultimamente è diventato un po' più monello, quindi portarlo fuori non fa mollarlo. E allora, ripeto, lì è il suo habitat alla grande, no, piano piano, non ne abbiamo fretta già fra. Sì, piano piano, tutto qua. Il problema è che poi da così sempre devi fare le cose, cioè non c'è mai tempo. Non si possono fare. Tanto lì è tutto così, come comunque, si viaggia, non problema. Cosa stavo dicendo? Un'altra cosa, mi sta preoccupando Marco, davvero, non si è sentito per niente, metteva problemi col gatto. Qualcuno si cambia, tanto da mamma e mamma sono tutti i gatti, ma anche difficoltà a riconoscermi alla mamma, perché molti sono tutti uguali. Addirittura? Sì. C'è un solo uno oltre lo sport, gli altri sono proprio con la felice, ma se li prendi, a parte che sono anche pellanti, ma se li prendi, sembrano che cambiano pelliccione di collo, di orso qua. Gappa, e così vuoi. Poi i gatti, poi, secondo gli incroci che hanno, sono molto belli. Sì, ce ne sono di bellissimi, veramente. Ho scoperto che sono molto intelligenti, anche se fanno tutto per non farlo capire. Sì, meglio di qualcuno di razza, come i cani. Anche se a volte mi danno l'impressione che, come vista, poi in realtà non siano tante da vicino. Da lontano magari vanno benissimo, ma da vicino... Cos'è, i gatti? Sì, i gatti. Sì. No, questo è 29,90. Si esaglia 29,90. Questo è l'ultimo. Ma qui è il... Quello del banda, cos'è? facciamo anche 5. Questo è un nuovo fuoco. Questo lo facciamo anche 5. Questo è un VP. Questo cos'è, quello qua? Tutti 1000 MP. No, poi andiamo un altro a passare, capito? Andiamo un altro a passare. Prendere un altro seminuovo. Mi è sempre piaciuto il 1000 MP a me, ma che 5. Beh, ah, vini, cos'è? Cacchio, ne fai? Da ditta e non da privati, no, no, sembra sempre questo stesso, questo cos'è? Stava cenando, cioè pranzando, come dice lui. stavamo in radio. Ci sentiamo dopo, vado a vedere dove è il gatto, dove è sparito. Il gatto? E che ce l'ho mangiato i cinesi? Il fatto curioso di questa cosa coreana, che hanno su un gatto. No, no, quello è sempre tutti i giorni sul telegiornale, no? È il fratello di quel dittatore coreano, del mondo Corea. L'hanno assassinato. Due ragazze. E magari sono qualche lato in aeroporto. E sai, le ragazzine erano abbastanza giovani. L'hanno preso la spada e le hanno trucchinato sul naso un collo di un fazzoletto e la sono scappate. Dopo un po', ovviamente, il tizio male è morto. Un'analisi risulta che era un particolare tipo di veleno molto più potente anche del cianuro, ma da solo trucchinarlo appena. Quindi se vuoi ammazzare una persona già ci vuole poco. Ma questo è un sistema un po' insolito, quello per veleno. Lui si era molto raffinati, tipo quello parata, li hanno contaminati col polonio. Vabbè, intanto già ce ne sono un po' più di cose da provare. Io non ho mai visto questo cianuro. Cos'è? Gucci? No, il cianuro è un derivato dalle mando, ma tanto vero che c'ha lo stesso sapore, la notizia lo riconoscono perché il sapore dalle mando non è male, ma una cosa presente in natura che è raffinata, ne bastano pochi grammi. Si sta secco, lo usavano una seconda guerra mondiale per essere catturati, poi lo usano qui per suicidarsi insieme a un po' di è sicuro, e da Brown, tutti i figli da Gerarca di nostra propaganda, che ha fatto anche bambino, la produzione di produzione, tutti hanno fatto anche la gine, una piccolissima scaletta di cianuro. Insomma, praticamente non c'è antidoto, l'antidoto è il carbone attivo che la assorbisce, ma insomma, non è così semplice, l'azione è molto facile. Istantanea, riuscì. Diciamo che è un po' di minuto. Dipende dalla rosa, ma quelle dosi che iniziano a essere saltate. Ciuga. E vabbè. E guai este. No. Qua già non si avvelena nessuno. Si sciura via, anche se avviene già ne tra i detti. Oh, oddio, non dire mai, perché magari non ce ne accorgiamo, ogni tanto non sta facendo una. Adesso bisogna stare attenti ai PSC, per il malattento, quelle anche aderenti quando sono graffiate, non usarle, buttarle via immediatamente. Poi ci sono altre sostanze, le scegliere ogni giorno c'è una volta. Addirittura, e come mai? Sono più sane. E beh, quelle più costose, infatti le stanno facendo di rivestimento in una sorta di pietra. Però il problema è sempre quando si grassa, non capisco. Perché c'è una pellicola particolare al di sotto di quella. Ecco, il problema sta sempre lì, dai. Il problema è sempre lì. Beh, ma sai che prima andavano tanto quelle cose in terracotta, poi tutti con queste pentole del cacchio, questi fanno anche le migliori. Poi in Italia, in Svezia, c'è una qualità, però le radici mi pare che sia tutta in alluminio, no? Sì, c'è un po' la professionale, anche perché l'abbiamo visto a Gamma, l'abbiamo visto a Gamma, quindi adesso non sono ancora un po' riguardo la compagnia, nei supermercati, per due o due giorni, quando li usano, ma anche le scuole militari nelle scuole, solo lì. Alluminio, acciaiolino, quelle cose lì, infatti. Vabbè, ognuno suo, mi già fra. Se vuoi ti dico. Vabbè, dai, io spengo, sono già le 8:15, vado a pappare, e poi me lo prendo di nuovo l'antibiotico, se no... un casino. Sentiamo Gianfranco, grazie delle chiacchiere. Rimane tutto acceso qua, là. Nel caso entra Marco, entro a salutarlo. Per il momento vado alla parte cucina, ok? Ciao!